e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, live su diversissimi canali stamattina. Marco arriva a ridosso della sigla, siamo in diretta Facebook, ma soprattutto siamo in diretta con i nostri amici attraverso il nostro tradizionale canale radiofonico. Tanti temi anche oggi. Cosa bolle nella pentola del cuore? Allora, nella pentola del cuore bolle un'acqua che è un po' troppo salata, perché parleremo di sale, è di dieta. È la giornata mondiale dell'acqua oggi, sì, me l'ha brava. Fatto. Vedi che tan. Allora, ieri sai che abbiamo fatto i complimenti, siamo il popolo più in salute, la classifica di Bloomberg. Ebbene, oggi già ci bacchettano perché la nostra dieta è troppo salata. Il bastone è la carota, no? Come si dice. Certo, consigliano di usare qualche pizzico in meno con tanti vantaggi per la salute. Forse noi non ce ne accorgiamo, ma superiamo di gran lunga la quantità suggerita, che è circa 5 grammi, l'equivalente di un cucchiaino da tè. Allora, subito un domandone, però devi metterci quello che aggiungi tu, i pizzichi, quella, la pasta. Ma quello che trovi anche nella fettina di prosciutto. Brava, no? Anche nelle fette biscottate, perché ci sono alimenti insospettabili. Allora, vi metto subito alla prova. Secondo voi, contiene più sale una scatola di sardine o una crescenza? Naturalmente paragoniamo 100 grammi di crescenza con 100 grammi di sardine in scatola. 800 24 00 24, subito per sondare un po'. Benissimo. Tu saresti, tu da che parte... Dai, sardine o crescenza? Sardine, io preferisco il pesce, perché sai che con il formaggio ho un rapporto un po' conflittuale da qualche tempo a questa parte, quindi vado di pesce. Allora, intanto vi aspettiamo. Per quello che riguarda i denari, invece, stamattina ritorniamo su una puntata di Investire Informati che abbiamo fatto settimana scorsa per qualche necessità di chiarimento che si è resa necessaria in questi giorni. Vi racconteremo tutti e poi naturalmente torneremo anche sull'altra grande questione di questi giorni, il bonus alle mamme. Diceva Repubblica, in questi giorni è scomparso, anche il Sole 24 ore ha segnalato più volte come l'INPS non fosse ancora operativa nella possibilità appunto per le mamme di fare richiesta del bonus mamma domani. Chiariremo appunto tutti questi aspetti. Di fatto ancora il bonus da 800 euro non si può chiedere, però si possono chiedere gli altri bonus, e quindi rifaremo un po' un punto della situazione, grazie anche alla guida che esce oggi con il Sole 24 ore, le agevolazioni alle famiglie. Mamme, papà in ascolto, se siete diventati genitori da poco, scriveteci, noi ne abbiamo qualcuna a disposizione, se la volete ve la possiamo anche inviare molto volentieri. Adesso partiamo con la rassegna stampa. Allora, la borsa intanto oggi è negativa, sta perdendo lo 0,9% il FTSE MIB a Piazza Affari, meno 0,8% Parigi, meno 0,7% Francoforte, Londra meno 0,88%, ieri è andata male anche Wall Street, il Dow Jones, depresso dai titoli finanziari, ha vissuto la sua peggior seduta del 2017. Il mercato è preoccupato per i ritardi da parte dell'amministrazione Trump per l'adozione dei promessi tagli alle tasse, la battaglia anche al Congresso per la difficile approvazione della proposta per abrogare la riforma sanitaria Obamacare. Quindi un po' di nervosismo. Anche l'Asia stamattina è andata male, con il Nikkei che a Tokyo appunto ha chiuso con un ribasso del 2%. Lasciamo subito la borsa, andiamo subito al primo tema di approfondimento di oggi. Allora, dobbiamo tornare sulla puntata di Investire Informati che abbiamo fatto giovedì scorso, in cui, come ricorderete, abbiamo preso spunto da due mail che ci sono arrivate da parte di due ascoltatrici. Ne richiamo una perché questa è un po' quella della discordia. Allora, Cecilia da Como ci aveva scritto che aveva ricevuto da sua mamma un gruzzoletto derivato dalla vendita di un appartamento. Ovviamente lo vorrebbe investire, questo gruzzoletto, è andata in banca, la banca che le ha proposto la sottoscrizione di due fondi di investimento e le ha detto, per non pagare l'ingresso e la tenuta del conto titoli, la banca dice te lo offriamo questa opportunità gratuitamente a patto che tu compri in cambio le nostre azioni. Lei dice: io non so nulla in materia, che cosa devo fare? Abbiamo chiesto aiuto al nostro Gianni Lupotto e... la vicenda proprio che avevamo voluto approfondire è quella della modalità con cui la banca propone soluzioni di investimento alla clientela, senza spiegare bene neanche la modalità di funzionamento di questi fondi. I due fondi proposti alla cliente sono stati fatti passare come due fondi etici. In realtà uno è gestito da Etica SGR, l'altro invece è gestito appunto da Arca SGR. Noi ci siamo concentrati un po' più su questo secondo fondo, sul primo un po' meno. Detto ciò, tanto è bastato per generare un grande malinteso di cui per la verità ci dispiace anche, perché pare che Banca Etica sia stata subissata di richieste di chiarimento che chiedevano appunto ragioni e spiegazioni. Pare che abbiano capito che stessimo parlando di loro e che sembra appunto che sia passato il messaggio che è Banca Etica che propone ai suoi clienti di sottoscrivere fondi di investimento in cambio della sottoscrizione contestuale di azioni della banca. Non è così, però noi abbiamo raccolto volentieri la richiesta appunto della banca di formulare questi chiarimenti a nostra volta a tutti i nostri ascoltatori. Allora, buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. Ad Alessandro Messina, direttore generale di Banca Popolare Etica, benvenuto. Grazie, benvenuto, ben trovati a voi. Ho fatto un po' un riassunto delle puntate precedenti, dottor Messina, insomma voi ci tenete a dire non ci appartiene assolutamente questo comportamento che invece purtroppo ancora continua ad essere un po' un malcostume di tante altre banche italiane. Messina. Allora, il tema è un po' complesso e purtroppo bisogna avere la capacità di affrontarlo con lucidità, perché una banca popolare come siamo noi e come sono altre banche in Italia è una banca cooperativa. Questo significa che si basa non su grandi capitali messi da fondi istituzionali o altro, ma si basa sull'azionariato diffuso, per cui inevitabilmente deve chiedere e ottenere in modo trasparente e diretto il sostegno ai cittadini. Il problema di quello che è successo in questi anni è che a volte questo sostegno è stato ottenuto in modo non appunto trasparente, camuffato da forme di incentivo o forme addirittura quasi di ricatto in alcuni casi per ottenere altri servizi bancari. Ora, anche noi come gruppo Banca Etica abbiamo una linea che premia chi è nostro socio, perché non diamo dividendi e quindi già chiediamo al socio di fare un sacrificio nel non chiederci dividendi quando mette il capitale, almeno gli riconosciamo dei vantaggi quando sottoscrive alcuni prodotti. Ovviamente questo è diverso dal dire non ti do il prodotto se non sei socio, oppure guarda, diventa socio perché così ottieni uno sconto, un certo tipo di favore. La nostra policy, e dovrebbe essere quella di ogni banca, che essere socio è un po' come sposarsi. Quindi è un discorso che bisogna fare conoscendosi bene. Il problema è, Messina, che poi il divorzio non è mai completamente consensuale, no? E quindi, vabbè, detto questo, no, quello che volevo dire è che noi abbiamo in realtà ormai un'esperienza, sono 18 anni di Banca Etica, 20 anni di cooperativa, noi abbiamo oggi 40.000 soci, ma nel tempo, e quindi un dato molto cresciuto, ma nel tempo ci sono soci che sono entrati, soci certo, che sono usciti. Nessuno mai ha avuto problemi né a entrare né a uscire, e questa cosa la possiamo garantire certo, grazie alla gestione molto oculata. No, sa perché ho fatto la battuta, perché riferendoci sempre al caso di partenza della nostra ascoltatrice, quello che naturalmente abbiamo provato a suggerire, poi anche noi suggerimenti di comportamento non è che possiamo farle, perché altrimenti, come dico sempre, lo studio, l'ufficio legale del Sole 24 Ore viene qua e mi bacchetta. Il tema è che a questa ascoltatrice abbiamo detto: guarda, tu comprati pure tutte le azioni della banca che vuoi e non è quotata in quel caso. Il tema è che poi uscire da quell'investimento è difficile, per quello in quei casi il divorzio non è mai quasi completamente consensuale, perché la banca ti dice sì, io ti faccio disinvestire dalle nostre azioni ma devo trovare un venditore, e poi ci ritroviamo nei casi di cui si parla in questi giorni delle banche venete e quant'altro. Chiusa parentesi, ecco, certo. Nel senso che noi abbiamo una policy diversa in cui, pur non potendo garantire, perché poi ci sono motivi di vigilanza prudenziale che oggi addirittura è spostata a livello di Francoforte, neanche più in Italia, eccetera, però noi non possiamo garantire in senso stretto che potremo sempre rimborsare il capitale. Certo. Il capitale è un elemento di rischio, quindi di questo il risparmiatore deve essere molto consapevole, perché si gioca insieme alla banca, si scommette insieme alla banca sul futuro della banca, e quindi questo di per sé è rischioso, non possiamo dire di no, però il nostro modo di gestione, la nostra trasparenza nei conti, la trasparenza nell'uso che facciamo del certo, denaro, sono le garanzie a presidio del fatto che, e la prassi lo conferma, finora chi è voluto uscire è sempre voluto uscire. Certo, insomma il tema è comunque, Messina, che noi giovedì scorso non stavamo parlando di voi, stavamo parlando di un vostro fondo di investimento che viene fatto sottoscrivere anche attraverso il circuito bancario tradizionale, ma questo non vi lega affatto al comportamento di quella banca. Detto ciò, però, in qualche maniera si è legato questo comportamento a questa questione, come risponde? così come la possiamo commentare? In realtà la questione qui è complessa, perché noi oggi abbiamo questo gioiellino che chiamiamo Etica SGR, la nostra società di gestione del risparmio, che oggi è la leader indiscussa del mercato dei fondi etici in Italia, con quasi la metà del mercato gestito, e che è collocata non solo da noi, ma questo ne ha favorito lo sviluppo, certo. È collocata da tante altre banche, per fortuna. Quindi risparmiatori che non sono clienti di Banca Etica hanno la possibilità, attraverso questo fatto, di sottoscrivere fondi etici, e questo numero è in crescita, siamo arrivati a 150.000 persone. Ovviamente noi non possiamo rispondere dei singoli comportamenti, certo, di tutti i collocatori, anche se devo dire investiamo molto sia nella loro formazione, mm-hmm, sia perché devono spiegare al cliente che tipo di prodotto stanno acquistando, e il nostro, bravo, è un prodotto articolato, perché fondo etico cosa vuol dire, in che senso è. Le chiedo un po' di sintesi, Messina, perché devo salutarla. No. Sì? Allora, semplicemente noi non possiamo rispondere, ma certamente facciamo tutto quello che possiamo per impostare rapporti corretti. Benissimo. E per rispondere in caso di problemi come questo che diceva lei. Quindi vigilate, monitorate, e noi naturalmente continueremo a segnalarvi questi comportamenti da parte anche di chi intermedia i vostri prodotti. Grazie Messina, quando passa a Milano ci venga a trovare, che la ospitiamo volentieri qui a Cuore Denari. Buona Grazie giornata. Grazie a voi per il lavoro che fate. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Traffico velocissimo, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Allora Deborah, c'è una notizia che sembra proprio creata apposta per noi, perché tutti vogliono venire a Cuore Denari, ecco. Allora, mi piacerebbe coinvolgere anche i nostri amici che ci stanno ascoltando. Allora, la prendo un po' alla lunga. Come avete dormito stanotte? Soprattutto, come vi sentite? Qual è il vostro stato d'animo quando vi alzate freschi e riposati dopo una bella dormita? Intanto potete rispondere 800 24 00 24, mandarci un WhatsApp anche vocale. Tra poco confronteremo le vostre risposte con i risultati di una ricerca dell'Università di Warwick che è pubblicata sulla rivista Sleep, secondo cui dormire bene è come vincere alla lotteria. Insomma, un sonno di buona qualità, oltre ai vantaggi che ormai conosciamo bene in termini di salute psicofisica, sarebbe in grado di produrre, pensati, effetti paragonabili a quelli di una vincita consistente. L'hanno pure misurata. Parliamo dell'equivalente di un jackpot del valore di circa 200.000 sterline, più o meno 233.000 euro, non so se è esattamente così il cambio. Comunque, sarà che io dormo bene, ma soprattutto che non ho mai vinto un euro, neanche in un gratta e vinci, che la cosa mi sembra un po' difficile. Ma io ho chiamato un grande amico di Cuore Denari e soprattutto un grande esperto, il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Così commentiamo questa ricerca, ma soprattutto abbiamo da lui delle indicazioni importanti, perché il sonno, come abbiamo avuto più modo di sentire e di dire, è vita. Buongiorno professore, è un po' che manca, Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Ci ha un po' trascurato, vabbè, dai. È così. No, non vi ho trascurato, che purtroppo, siccome vengo interpellato molto spesso, quindi non sono riuscito. Mamma mia. Allora, senta, professore, le sembra che uno si sveglia e dice: ah, guarda, sono felice come aver vinto ad una lotteria. È vero che ci sono persone che pagherebbero per dormire bene? Questo sicuramente è vero, ci sono persone che, soprattutto quelli che hanno un forte condizionamento relativamente al sonno, cioè quelli che sono convinti che devono magari per forza dormire 7-8 ore per star bene, perché altrimenti non riescono a fare una vita normale. Ecco, queste persone sicuramente pagherebbero qualunque cifra pur di dormire bene. No, ma in realtà poi la ricerca puntualizza questo aspetto, ma soprattutto ci fa capire come dormire bene migliora anche quello che è il tono dell'umore e il buon funzionamento diurno. Quindi non è sicuramente lo stesso tipo di piacere che è stato quantificato in quella maniera, anche perché poi sarebbe difficile fare un discorso che va bene per tutti. Certo. Però il dormir bene sicuramente vuol dire avere una diciamo così, un umore migliore, quindi chiaramente avere anche una capacità poi di affrontare le cose, la vita in maniera diversa, perché noi pensiamo sempre ai soliti discorsi che abbiamo sempre fatto sul fatto che il sonno è importante per inibire il cortisolo, che è l'ormone dello stress, il fatto che ci fa funzionare meglio il metabolismo glucidico, perché ci fa produrre un'insulina che funziona molto bene, che quindi ci abbassa la glicemia. Ecco, sicuramente tutti questi aspetti sono importanti, è importante per la memoria perché ci aiuta a consolidare le informazioni che abbiamo appreso durante la giornata, ma c'è anche un aspetto importante che è quello di farci essere tutto sommato più, potremmo dire, più felici e avere anche una maggiore capacità di capire quelle che sono le emozioni degli altri. Quindi il sonno è anche un importante momento per migliorare la nostra capacità di relazione interpersonale e quindi anche migliorare quelle che possono essere poi le nostre potenzialità in termini appunto sociali. Certo, il jackpot è una grossa vincita, questo insomma. Ecco, per dirlo dovrebbero portarceli qua, poi noi, no? Ecco, ci portano una grande vincita poi... e noi ci facciamo una bella dormita. Abbiamo sopra. Bisogno di uno studio in doppio cieco. Giorgio ci scrive: per quanto russa mia moglie, sono sul lastrico. Professore, russano anche le donne, ahimè. Russano anche le donne, lo sappiamo bene. Dopo 50 anni, anzi, le donne possiamo dire che a volte russano più degli uomini dopo 50 anni. Quando non hanno più la protezione degli ormoni femminili, quindi cominciano a mettere il depositi di grasso come nell'uomo, a livello anche del collo, e quindi più facilmente russano. È chiaro che uno degli aspetti fondamentali, soprattutto per la donna verso quell'età, è di cercare di non aumentare di peso, perché altrimenti la faccenda si complica. E quindi, però ecco, ricordiamoci che il russamento non è soltanto qualcosa che è tipicamente maschile, ma può essere anche appunto nella donna. Ma la cosa importante è che questo russamento non si accompagni alle apnee, perché a quel punto allora bisogna prendere la cosa ancora più seriamente e cercare di risolvere il problema. Quindi ricordiamo che quando l'apnea si riconosce, potete riconoscere se il vostro partner, il vostro compagno di letto, diciamo così, soffre di apnea, se mentre russa a un certo punto si ferma e trattiene il respiro. Per noi sembra un sollievo, in realtà ci sta mandando un messaggio ben chiaro, professore. Esattamente. Poi non è solo quello, c'è poi il fatto che il soggetto poi in genere, quando ha questo tipo di problema, ha sonnolenza di giorno, si sveglia al mattino con una importante cefalea che poi stranamente dopo mezz'ora sparisce, perché questa è la caratteristica della cefalea di chi russa e di chi fa le apnee. Quando dopo circa mezz'ora questa cefalea così improvvisamente va via. E l'altro aspetto fondamentale è l'aspetto della nitturia, cioè quindi il fatto di alzarsi magari una o più volte per andare a far pipì durante la notte. Questo è un segno appunto che si fanno delle apnee, perché quando si fanno delle apnee la pressione arteriosa tende a restare alta durante la notte, e quindi il buon Dio ci ha creato questa possibilità, questo meccanismo di salvataggio, che è la secrezione di un ormone che si chiama ormone natriuretico, che ci fa andare a urinare, e quindi in questa maniera riusciamo ad abbassare la pressione arteriosa. Vedi, abbiamo iniziato quasi con un sorriso per jackpot e bella dormita. Il professor Ferini Strambi ci ha dato tante indicazioni da ricordare, tenere a mente: cefalea mattutina, attenzione, è un segno da non trascurare, il desiderio di andare a fare la pipì di notte, durante la notte, non è sempre solo colpa della prostata, professor Ferini Strambi, certo, e nel caso dell'uomo. Sempre diabete, perché si pensa sempre al diabete, la prostata, che in realtà la sindrome delle apnee morfeiche, la sindrome delle apnee notturne, è una delle prime cause proprio di questo svegliarsi di notte con la necessità di andare a farti. E allora voi continuate a seguirci, state belle e sveglie, perché tra poco arriva il nostro GR, poi i temi di Cuore Denari, parleremo anche di sale, perché ne consumiamo troppo, e sì. Deborah? E di bonus mamme a 360 gradi, ce n'è tanti in circolazione, ma qualcuno in realtà non si riesce ad acchiappare, a tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 26 marzo al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione. Il lato comico dell'attualità. Cuore e denari. Si parla tanto di famiglie in questi giorni sui giornali, con diversi tagli dati alla questione dello stato di salute della famiglia italiana. C'è l'indagine Istat che racconta come ancora le difficoltà del mondo del lavoro imperversino, tema che noi approfondiamo spesso a Cuore Denari, sul quale torneremo naturalmente al più presto. Oggi parliamo invece di quelle famiglie che vogliono un po' allargarsi. E magari avevano fatto anche conto di recente con tutti i vari bonus a vario titolo promessi appunto dallo Stato. Intanto vi segnalo che se volete avere un quadro razionale della situazione, oggi con il Sole 24 Ore c'è la guida Le agevolazioni alle famiglie, dagli sconti del fisco agli aiuti dei comuni. Ci sono tante iniziative sul territorio, quindi se anche questo famoso bonus mamma domani, che sembra scomparso appunto, non riuscite ad acchiapparlo, in realtà magari andando a fare una chiacchierata con il sindaco, ce n'è uno appunto dell'amministrazione comunale che può esservi messo a disposizione appunto per sostenere le spese che è necessario sostenere quando arriva il bebè nuovo in casa. Detto questo, appunto, ripartiamo proprio da questa questione tanto enfatizzata in particolar modo da Repubblica, ma sulla quale anche il Sole 24 Ore aveva puntato un riflettore nelle scorse settimane, grazie intanto all'attenzione che sull'argomento dedica frequentemente Matteo Prioschi, il collega del Sole che è venuto a ritrovarci di nuovo. Matteo, ciao. Buongiorno a tutti. Peraltro, proprio con Matteo, qualche settimana fa dicevo, ma perché non facciamo il punto sui vari bonus per le mamme che sono stati contemplati dalla legge di stabilità? E Matteo mi diceva, guarda che le istruzioni dell'INPS non ci sono ancora, non c'è la possibilità di fare la domanda, dopodiché arriva l'altro grande giornale che fa l'inchiestona e ce la frega, come al solito, tema che anche ieri sono tornata a denunciare. Matteo, allora, no, a parte che saluto anche l'altro ospite, perché è carino da parte nostra dare il benvenuto a Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI. Buongiorno Conti, ben ritrovato anche lei, un altro grande amico di Cuore Denari, vero? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate la voce, ma è il raffreddore incombe. È l'allergia primaverile, se non Nicoletta subito le dà qualche istruzione per alleggerire questo peso del naso. In lavaggi nasali possono che fare bene. Però insomma è raffreddato. Allora intanto naturalmente richiamo anche gli ascoltatori. 800 24 00 24, bonus mamma domani, il desaparecido della situazione. Ma c'è anche il bonus bebè, i voucher per gli asili, per la babysitter. Siete a conoscenza di questi bonus? Avete già individuato quelli a cui avreste diritto, anche se le procedure non sono ancora attive per tutti? Raccontatecelo appunto al numero verde. Abbiamo pensato anche ad un omaggio per le famiglie con bebè in arrivo o appena arrivati. Abbiamo un sacco di guide, che sono appunto quelle che sono in edicola stamattina con il Sole, e noi siamo in grado appunto di darle in omaggio ai primi 5 sms, ai primi 5 whatsapp o alle prime 5 telefonate al numero verde, alle mamme o ai papà o ai nonni che ci segnaleranno se c'è un bebè in arrivo in famiglia o in procinto di arrivare. Diteci come si chiama, quando è nato, quando nascerà, e noi qua oggi proprio con la nostra consueta generosità siamo pronte a fornirvi appunto queste per guide. Fiocchi rose e fiocchi azzurri. Assolutamente, sono queste guide che sono utili. Allora partiamo dal famoso bonus mamma. Matteo, il grande, come dicevo prima, scomparso, il grande, e anche se in realtà abbiamo scoperto che ce n'è un altro di fantasma, ma partiamo prima da questo. In realtà ci sono i decreti attuativi, mi pare, del governo, ma in realtà non ci sono ancora le istruzioni per poter far domanda per questo bonus da 800 euro per tutte le neomamme, a prescindere dai requisiti economici che si hanno in famiglia. Sì, la novità particolare del bonus era questo, appunto, quello di essere slegato da requisiti reddituali del soggetto che lo richiedeva, della famiglia. Peraltro si viene riconosciuto per le nuove nascite, ma anche per l'adozione o l'affido, quindi in modo analogo a quelli che già esistono. Il problema di questo bonus è appunto che in realtà non necessitava di decreti attuativi particolari, in teoria diciamo così era abbastanza semplice in teoria l'applicazione, però i tempi pratici poi sono sempre lunghi, insomma non è una novità, certo. L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, da quando la legge lo prevede a quando poi diventa operativa una misura passano almeno 2 o 3 mesi nel migliore dei casi, questa è l'ennesima conferma purtroppo. Uh-huh. Tu accennavi prima che c'è un'altra misura prevista sempre dalla legge di bilancio approvata a fine dicembre, che anche questa non è ancora operativa. Si tratta di un assegno di 1.000 euro all'anno che è stato previsto per pagare l'asilo nido, piuttosto che se una famiglia ha un bambino con gravi patologie croniche in famiglia e quindi deve far fronte a delle spese, diciamo così, eccezionali. In questo caso invece è necessario un decreto attuativo, sì. Poi seguirà una circolare dell'INPS come sempre e così via, di questo bonus non se ne sa niente perché quando. Qui manca proprio il decreto attuativo che deve essere invece certo. Emanato entro il 31 gennaio e non c'è ancora. Paolo Conti, allora, in attesa che l'INPS faccia pace con il Ministero della Famiglia, agli sportelli INPS sembra che gli operatori appunto rispondano alle mamme che vanno a chiedere in questa maniera: faccia finta che il bonus non ci sia. È la stessa risposta che tocca dare anche voi agli sportelli quando vi vengono a chiedere il bonus, mamma domani come posso fare domanda, mi aiutate a compilarla, dove trovo il modulo e quant'altro? Sì, no, allora il bonus mamma domani c'è ed è definito, tanto è vero che anche l'INPS ha fatto una circolare la 39 il 27 di febbraio dove andava a ribadire i requisiti e le modalità con cui avrebbe fatto partire le richieste. Allora, questo bonus viene erogato con una domanda che è fatta esclusivamente in via telematica, per cui non c'è bisogno di consegnare o fare nessuna modulistica alle sedi INPS locali. E l'unica cosa è che probabilmente i tiramolla che ci sono stati a fine tra dicembre e gennaio sull'adozione o meno di limiti reddituali, perché questo bonus prima partiva con un limite reddituale, poi è stato tolto, poi sì. È stato rimesso, poi è stato tolto, probabilmente ha scompaginato un po' le carte in tavola e di conseguenza si è arrivati un po' lunghi, tant'è vero che l'INPS per la prima volta appunto il 27 di febbraio, cioè 2 mesi dopo praticamente dall'adozione del decreto attuativo, è entrata nel merito dicendo chi erano esattamente i soggetti, cioè tutti gli italiani, i cittadini comunitari, gli extracomunitari con permessi di soggiorno di lungo periodo, rifugiati politici, cioè di fatto tutta la platea, ha identificato in maniera precisa i soggetti, però anche in quel momento dice era nostra cura divulgare nei tempi e nelle modalità più rapide possibili come inserire i dati sulla piattaforma web della cosa. Però è indubbio che qui nessuno perde niente, non appena sarà possibile inserire le domande poi si procederà poi alla liquidazione. Anche secondo voi ragionevolmente entro quanto tempo potremmo vedere un'operatività piena della misura? Ma guardi, noi abbiamo visto negli altri anni anche col bonus bebè nel 2015, da quando è uscito il DPCM a febbraio e la norma poi è andata in vigore con maggio, di solito ci vogliono 60-90 giorni per realizzare tecnicamente il software collegato, per cui io penso che con i prossimi mesi sicuramente dopo Pasqua va, ne aspettiamo. Ma il problema è che cambiano appunto sempre le misure, ovviamente i requisiti, perché in realtà delle piattaforme ci sono già, magari basterebbe aggiustare quelle già predisposte per misure pregresse. Adesso non so, forse io sono come al solito Alice nel paese delle meraviglie, la faccio un po' troppo facile, però visto che già dei meccanismi operativi ci sono, Matteo, e invece ogni volta ad ogni misura corrisponde un procedimento radicalmente nuovo rispetto al precedente. Sì, più che a volte il procedimento, diciamo, è la norma che ci sta dietro, i requisiti, e quindi il problema è proprio la frammentazione degli aiuti che oggi ci sono, no? Perché appunto il bonus bebè, quello nuovo mamma domani, ha caratteristiche diverse ad esempio dal voucher per gli asili nido, piuttosto che quello dal bonus bebè da 80 euro al mese. Esatto, il bonus bebè da 80 euro al mese, quindi magari la procedura in sé potrebbe funzionare, ma c'è un budget dietro, ad esempio, da rispettare, perché in molti casi le misure vengono riconosciute fino all'esaurimento delle risorse. Quindi l'INPS deve, diciamo così, avere ben presente quanti soldi a disposizione e destinare a quella singola misura. Non si può mettere tutto insieme. Se no poi capita come quella di tanti anni fa, che ad un certo punto nelle erogazioni appunto fatte sono state richieste indietro le famiglie che avevano fatto un'autocertificazione e non ne avevano appunto il diritto. E quindi poi lo Stato ti richiede indietro i soldi, e quello è un frangente, sembra un po' sgradevole. Il problema è la frammentazione e la diversità delle regole. Da questo punto di vista sarebbe auspicabile una, diciamo così, l'introduzione di una misura, se non unica, comunque con criteri e regole omogenei in futuro, in modo da appunto semplificare sia la gestione da parte dell'INPS, sia la comprensibilità e l'utilizzo da parte delle famiglie. Allora, in attesa intanto che arrivi il bonus mamma domani, 800 euro per far fronte alle prime spese che corrispondono a quella che è necessario sostenere appunto non appena arriva il nuovo nato, quindi tutte le spese dai pannolini all'allestimento appunto della cameretta, e non so, insomma, ogni famiglia può spendere naturalmente questo denaro. Non c'è vincolo esattamente, di utilizzo. Come meglio crede. Andiamo invece a quello che già esiste, il bonus bebè, gli 80 euro mensili, quindi 960 euro all'anno come assegno di natalità o bonus bebè, chiamiamolo come vogliamo, che è in corso, che è in vigore, sì, no Matteo? Questo è stato introdotto nel 2015 e sarà riconosciuto appunto a tutte le nascite, adozioni, affidamenti fino alla fine del 2017. Questo però questo è soggetto a un limite di reddito. Eccoci qua. O meglio di condizione economica, cioè gli 80 euro al mese vengono riconosciute alle famiglie che hanno un ISEE, un indicatore appunto di situazione economica equivalente, non superiore a 25.000 euro. Se poi l'indicatore non supera i 7.000 euro, il bonus viene raddoppiato, quindi se hanno diritto 160 euro. E la domanda si fa una volta sola, però poi bisogna fare attenzione che a rinnovare l'ISEE, che invece ha scadenza validità annuale. Mm-hmm. Allora, intanto ci sono Giusy e Bruno Carini da Reggio Calabria. Io sapevo che ti sarebbe piaciuto. Dai, leggilo tu allora. No, vai, vai. Siamo appena usciti dallo studio della ginecologa. Il nostro chicco d'uva è lungo 3,6 centimetri e oggi batteva le manine. Siamo alla decima settimana, incrociate le dita per voi. Ma non solo, noi vi mandiamo anche la nostra guida, in modo tale che tutte queste agevolazioni appunto in futuro voi ne possiate naturalmente fruire. Intanto continuo ancora a invitare i nostri ascoltatori a chiamarci, WhatsApp, o a scriverci. C'è il pienone, sì, riempiamo asili con tutti i messaggi, i nomi dei bambini che stanno per nascere, che sono già nati. Facciamo l'asilo. Non, io voglio vedere mamme. Chi farà il primo asilo, che si chiama Cuore Denari. Purtroppo metterci insieme il denaro lì non è tanto bello come intitolazione di un nido, però siccome aiuta, quelli pure ci vogliono, e magari lo intitoleranno a noi quando non ci saremo più. In memoria di Nicoletta e Deborah. Aspettiamo che facevano ancora la giornata di Cuore Denari. Ah, non si sono candidate? No, si sono candidate alcune giornate, ma non le abbiamo raccogliere. Ben argomentato. Volevo solo segnalare un'altra cosa, perché ci tengo. C'è Roberto che ci chiama all'800240024 e ci chiede di fare una trasmissione sulla situazione dei papà separati. E allora la faremo, Nicoletta, certo. Perché? Ma io ci aggiungo anche che in realtà c'è una mamma che mi ha scritto che ha una situazione diversa, è quella di una mamma che da qualche anno non è più in grado di vedere sua figlia, perché separazione molto dura, e la bambina ha scelto di andare a vivere con il papà, che non la mette nelle condizioni di vedere la mamma. Sono tutte situazioni che ovviamente vanno prese con le pinze, verificate accuratamente eccetera, però tante situazioni difficili che continuano a bussare alla porta del nostro programma. Proveremo a dar voce anche a queste situazioni. Torniamo ai nostri bonus intanto, ancora con Paolo Conti, per quello che riguarda appunto i CAF ACDI, direttore generale dei centri di assistenza fiscale delle ACLI. Un'altra questione che è stata sollevata in questi giorni, Conti, è quella dell'altro bonus di cui abbiamo parlato tante volte in passato, quello per pagare la babysitter o pagare appunto l'asilo nido. Per coloro che ne hanno fatto richiesta e lo hanno ottenuto per pagare la babysitter, il tema è che questo bonus era praticamente riconosciuto attraverso i voucher che sono stati cancellati in questi giorni. Dovete gestire anche queste situazioni, no? In queste settimane. Sì, adesso le dico la verità, non sono tantissime, perché questo è stato un bonus che non ha avuto un grande successo. Perché c'erano gli asili nido che dovevano anche in questi casi iscriversi ad una lista, eccetera. C'erano pochi asili all'inizio, poi la questione. Adesso i voucher proprio ieri la nota del governo diceva che quelli emessi verranno, sono utilizzabili fino al 31-12 del 2017, per cui è indubbio però che non sappiamo che cosa accadrà per coloro i quali eventualmente faranno la domanda nei prossimi mesi, perché a tutti gli effetti non sappiamo e non c'è stata data nessuna indicazione su come verranno retribuite. I regimi transitori sono sempre qualche cosa di difficilissimo da contemplare in ogni misura che ogni governo prende, insomma, si prendono dei provvedimenti velocissimi come questo che ha cancellato i voucher e tutta la disciplina del lavoro accessorio, poi però, come ci segnalavano i consulenti del lavoro proprio lunedì, il regime transitorio non si sa come deve essere gestito. Questa è una transitorietà che andrà avanti ancora per un po', peraltro penso a prescindere dalla fine dell'anno. Sì, infatti questi sono regimi devastanti. Riagganciandomi a quello che diceva il collega prima, cioè è indubbio che quello che richiedono le famiglie, quello che richiedono le persone agli sportelli oggi è quello di avere un senso di certezza, di regolarità. Oggi noi siamo accompagnati da una moltitudine di provvedimenti che nascono e muoiono. Anche il bonus bebè al 31-12 del 2017 finirà e non è dato sapere e che cosa accadrà dopo. Di conseguenza c'è questo senso un po' di smarrimento, di confusione nelle persone, e forse su questo andare verso un provvedimento unico che definisca gli aiuti sulla famiglia sarebbe infatti l'unica la razionalizzazione cosa. Invitiamo magari a un pensiero in questo senso il ministro Costa, il ministro per la famiglia, che sappiamo appunto ha molto a cuore queste tematiche. Intanto i requisiti per il bonus babysitter e il bonus asilo, vale la pena ricordarlo ancora, sì. Matteo Prioschi? È un aiuto che appunto un assegno mensile di 600 euro fino a un massimo di 6 mesi per le lavoratrici dipendenti, mentre per le iscritte alla gestione separata dell'INPS il massimo è 3 mesi. Mm-hmm. Ed è la particolarità di questo bonus è che è alternativo al congedo parentale, cioè quello diciamo facoltativo che si prende dopo la maternità obbligatoria. E quindi la madre deve rinunciare a parte o interamente a questo congedo. E per il periodo in cui rinuncia può avere diritto appunto a questo bonus che è sostitutivo. Quindi diciamo che l'idea, lo scopo di questo voucher è quello di aiutare diciamo le mamme a rientrare prima al lavoro e fornendo un diciamo un contributo per pagare la babysitter, certo, o l'asilo. Senti l'asilo Matteo, nido. Visto che ve ne occupate anche in questa guida del Sole 24 Ore, la ricordo ancora, le agevolazioni alle famiglie dagli sconti del fisco agli aiuti dei comuni. I comuni sono generosi in Italia in questo senso, nel sostegno alla famiglia. Sappiamo che c'è la regione Emilia-Romagna che fa veramente di tutto e di più, ma ovunque non è naturalmente possibile. Esistono delle aree particolarmente virtuose in cui possiamo invitare anche i genitori ad andare un po' a chiedere informazioni? La situazione sì, è articolata sul territorio ed è difficile appunto capire dove le situazioni sono più favorevoli diciamo rispetto ad altre, soprattutto perché appunto la gestione spesso è delegata ai comuni e si perde anche diciamo il canale informativo, no? Magari l'opportunità c'è, ma se una persona non si prende la briga di chiedere in comune o semplicemente andare sul sito dell'amministrazione comunale per verificare la disponibilità degli aiuti, non ha la possibilità, certo, poi di accedervi, perché le misure sono effettivamente numerose e frammentate. Ad esempio c'è anche l'assegno nucleo familiare per chi ha almeno 3 figli, che viene erogato dall'INPS ma va chiesto al comune, e quindi se uno non ha l'accortezza di informarsi localmente magari ci rinuncia senza esserne consapevole. Allora, un'ultima domanda, poi vi salutiamo, ma non appena il bonus mamma domani sarà pronta l'erogazione, chiamateci, perché vogliamo dare la notizia in anteprima mondiale, direi. Angelo ci chiede: i redditi di una coppia non sposata si sommano, conti? Visto che oggi abbiamo anche questi nuclei familiari di cui prenderci cura, sì, ovviamente. Per il bonus bebè assolutamente sì, perché si fa riferimento a un valore ai fini ISEE che dunque prende in considerazione il nucleo familiare, anche se questo è composto da soggetti non sposati. Allora, intanto Emanuela ci scrive anche, così un po' commentando quello che dicevamo prima a proposito del voucher con cui si pagano le babysitter, ma insomma dice: ma le babysitter da sempre sono rigorosamente pagate in nero. Guardi Emanuela, i voucher erano nati anche per sconfiggere questo problema, e con un colpo di spugna abbiamo cancellato tutto, sempre perché siamo passati, come capita spesso da noi in Italia, da una situazione appunto di giungla ad una di abuso. abuso, per cui dall'estremo all'altro, e quindi si deve cancellare tutto e resettare. Grazie a Matteo Prioschi per essere stato. Abbiamo detto tutto, Matteo, c'è qualche altra informazione? Abbiamo rifatto un po' una veloce fotografia della situazione esistente. Quadro generale questo. E benissimo, allora aspettiamo intanto il bonus mamma domani. Conti anche con lei, l'appuntamento è rimandato al più presto. Bene, grazie. Grazie molte. Adesso abbiamo velocemente la borsa di oggi e poi andremo agli approfondimenti di cuore tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati, Deborah, noi eccoci, con tutti i nostri bambini che praticamente diventano nipoti di Cuore Denari. Guarda, qua sempre più zie siamo. Allora, io intanto leggo dagli SMS. Gilberto, la mia compagna, stiamo ascoltando la vostra trasmissione. La bimba nasce a maggio, si chiamerà Sveva e noi siamo al settimo cielo, non vediamo l'ora che sia tra di noi. Mentre Alberto dalla provincia di Pordenone, sabato compiranno un anno e con l'anno concludiamo l'affido preadottivo. Elena e Maria Sole con noi dallo scorso aprile, entreranno ufficialmente in famiglia, speriamo che la burocrazia ci dia una mano. Noi sicuramente vi mandiamo tutto il nostro affetto e le nostre guide anche. Ecco, anche per Sara che arriverà, terrà la compagnia a Chiara. Marco sta aspettando anche il fratellino. Adelo e Eric sono attesi al 10 maggio, e fantastico, quindi qua dai che ci crediamo, dai, e ancora noi festeggeremo con voi. Benissimo, ieri proprio a proposito di festeggiamenti abbiamo festeggiato al primo posto nella classifica di Bloomberg. Siamo il popolo più in salute, longevo dei 163 paesi presi in esame, ma l'abbiamo anticipato in apertura, già ci bacchettano perché siamo bravi, belli, sani, ma consumiamo troppo sale, il doppio di quanto serve, eppure basterebbe qualche pizzico in meno per regalarci tanta salute in più. Allora diamoci subito da fare, perché Deborah, anche questo è un investimento per la nostra salute. E ci facciamo aiutare da due esperti a cui chiediamo come proprio fai tu quando parli di investimenti, di spiegarci quanti pizzichi in meno possono renderci in termini di salute, qual è il rendimento e soprattutto cosa fare. Consigli per rendere meno salata la nostra dieta. Intanto salutiamo la professoressa Evelina Flacchi, specialista in scienze dell'alimentazione, presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare e membro direttivo della Società Prevenzione Cardiovascolare, che è tornata a trovarci e noi siamo molto felici. Grazie professoressa Flacchi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E con noi non poteva mancare naturalmente il professor Claudio Borghi, è un po' il nostro preferito. Professore, buongiorno. Si monti buongiorno. La testa, calma. Ma sì, ma no, si monti la testa, ma montiamoci la testa. Alla mia età ormai la testa si sta piano piano smontando, per cui... Non dica così. Allora, è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orso alla Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione. Professoressa Flacchi, il professor Borghi probabilmente in quanto maschio consuma più sale rispetto a me, lei, Deborah, le nostre amiche che ci stanno seguendo. Così ci dicono i dati. Infatti, gli uomini sembra consumino oltre il doppio del limite giornaliero raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 10,6 grammi contro i 5 raccomandati, mentre noi donne ci attestiamo sugli 8,2 grammi. In sostanza, i dati che sono stati diffusi dal Ministero della Salute in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale ci dicono che solo il 5% degli uomini e il 15% delle donne sta sotto i limiti. Quindi, professoressa Flacchi, c'è parecchio da fare, da lavorare. I granelli sono piccoli, ma bisogna spazzarli un po' dalla nostra dieta, un po' come facciamo con i granelli di polvere a casa nostra. Professoressa. Sì, infatti, la tendenza potrebbe essere dovuta al fatto che noi donne siamo più attente perché abbiamo questo problema della ritenzione idrica. Eccoci. Che ci fa comunque paura e di cui siamo anche informate nelle varie fasi d'età. E quindi già la mamma abitua magari la bambina nella fase anche dell'adolescenza e dello sviluppo a tenere sotto controllo il sale nei cibi, proprio perché lo fa lei, che magari è già in l'età critica della menopausa, dove questo fenomeno può anche aumentare per vari altri motivi. Quindi potrebbe esserci questa spiegazione. Siamo più attente. Sì, sì, ecco. più influenzate dall'estetica, chiamiamolo così, e meno dalla salute. E lei ha già individuato un periodo in cui il sale nella donna diventa particolarmente, tra virgolette, pericoloso, che è quello della menopausa, oltre a quello dell'adolescenza. Professor Borghi, intanto si è calcolato che se si riducesse il consumo di sale nel mondo da 10 a 5 grammi al giorno, si avrebbe un calo del 23% del rischio di ictus e del 17% per le malattie cardiovascolari. Questi sono risultati strabilianti, ma si rimane quasi incredule, viene spontaneo un po' domandarsi come è possibile che la nostra salute sia così fortemente influenzata da pochi grammi di sale in più o in meno, professor Borghi. Indubbiamente, il problema del sale più o meno non è come tale, non è il sale come tale, ma è la serie di meccanismi che l'ingestione di sale innesca e che in qualche modo poi hanno un riflesso dal punto di vista cardiovascolare. Cioè ogni volta che lei fa cadere un grano di sale direttamente nel nostro tubo digerente, questo mette in moto un macchinario estremamente complesso che alla fine ha tra le sue conseguenze l'aumento dei valori della pressione e quanto ne consegue. Quindi fondamentalmente è corretto che se noi riducessimo la quantità di sale ai livelli che lei suggeriva, potremmo ottenere grossi vantaggi in termini di salute, anche se il dato non è completamente reversibile. Sì, è vero che c'è una correlazione lineare fra sale e malattie cardiovascolari, è altrettanto vero che gli interventi dietetici finalizzati a ridurre il sale al di sotto di un certo livello non sempre producono i risultati attesi, perché una volta che questo macchinario si è innescato è necessario poi, per ottenere una reversibilità completa, agire sul sale ma anche sugli altri fattori di rischio associati. Quindi è un discorso un po' più complesso, ma in linea generale ciò che ha detto è assai condivisibile. Allora, quanto è salata la vostra dieta? 800240024. Sul sito della SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione, potete trovare anche un questionario. Noi vi mettiamo il link sulle nostre pagine, ma professoressa Flacchi, intanto ci aiuti lei con un paio di domande, qualche considerazione, a fare un po' un'autovalutazione della nostra dieta e capire quanto e se e quanto è salata. Potremmo partire dalla considerazione che il 75% del sale che introduciamo è nascosto nel cibo che compriamo, quindi è vero che non è tutto a colpa nostra, però poi anche noi abbiamo un margine d'azione che la professoressa Flacchi ci aiuterà a individuare e ci farà seguire passo passo. Professoressa Flacchi. Sì, dovremmo abituarci anche, diciamo, abitualmente a leggere le etichette, se vogliamo fare attenzione a questo ingrediente, come per altri del resto. Sì. Perché ci sono degli alimenti che noi non immaginiamo salati, addirittura le fette biscottate, anche gli alimenti dolci contengono sale, quindi oltre allo zucchero, e nella quota giornaliera questi potrebbero creare un accumulo, perché poi magari mangiamo fuori casa insaccati formaggi stagionati, anche se oggi l'industria è molto attenta a questa a questo aspetto di prevenzione, perché possiamo fare prevenzione con l'alimentazione, molto attenta, e ha molti prodotti ridotto la concentrazione di sale anche nella conservazione, per esempio dei salumi, nella preparazione di alcuni formaggi stagionati, per cui abbiamo anche un aiuto dall'industria, ma dobbiamo imparare a leggere quello che ci fornisce. Ecco, quindi, a proposito di etichette, professoressa Flacchi, i valori sono espressi in grammi di sodio o in grammi di sale? Come possiamo organizzarci? Allora, una regola facile è quella di moltiplicare il grammo di sodio che leggiamo per 2,5. Ecco, ed è una regolina che ci permette, non so, per dire, leggiamo 0,1 grammi di sodio per 100 grammi, noi sappiamo che moltiplicando per 2,5 avremmo la quota di sale che contiene la 100 grammi dell'alimento che consumiamo. E quindi riusciamo a farci un'idea. Quindi possiamo anche fare questo tipo di lavoro, ma a volte basta avere anche un po' di buon senso, e cercare di usare delle strategie pratiche anche nel confezionamento dei nostri alimenti e nella preparazione di corretti abbinamenti. Se consumiamo un cibo saporito già confezionato con un certo tipo di quantità di sale, eviteremo di aggiungerlo magari nelle verdure, nelle insalate che ci accompagnano. Oppure se cuciniamo alimenti a casa, ecco, cosa sempre preferibile, riduciamo la quota di sale e aumentiamo magari i sapori, gli aromi, le spezie. Oggi ci aiutano, sono molto di moda, sono state valutate benefiche per l'organismo anche per altri effetti protettivi, antiossidanti, quindi impariamo anche a impadronirci di queste diciamo di questi ingredienti. Lo stesso peperoncino, sì, aggiunge un po' di italiano, piccantino e non, esatto, ci fa sentire il... Poi, però ci sono persone, lo sta scrivendo su WhatsApp un nostro ascoltatore, che come ci sono persone che non resistono e devono in qualche modo tenere a freno una voglia di dolci, ci sono persone che hanno bisogno l'insipido proprio di qualcosa proprio di salato, come le capre. Allora, capre cavolo, le capre piace il sale, ma tra poco parleremo di nuovo di sale e insieme ai nostri esperti, sale e ipertensione. Il professor Borghi ha già anticipato un po' il tema, ma ci torneremo. 800 24 00 24, se volete dirci quanto è salata la vostra dieta, quante volte mangiate fuori pasto, se siete presi da questo desiderio invece di sgranocchiare qualcosa di dolce, di avere qualche cosa di salato e magari in quale momento particolare della giornata, qualche pizzico in meno, tanta salute in più, così ci dicono gli esperti, cerchiamo di accontentarli. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Del mio castello sono la regina ed il mio regno è la cucina. Noi entriamo in cucina, parliamo di sale, di grammi di sale. Tommaso da Bologna ci scrive: tutte le volte che vi ascolto mi viene l'angoscia, povero Tommaso. Allora, possibile che bisogna solo mangiare insalata scondita? Allora, è curioso che venga l'angoscia per mangiare l'insalata scondita. Tra un estremo e un altro. Ma non gli chiediamo questo. Professore Saflachi, a Tommaso gli diciamo di aggiungere tutto il sale che vuole, se questo sì, lo rende felice. Oppure a aromatizzare anche l'insalata con della rucola, dei ravanelli che adesso troviamo facilmente perché aggiungono questo piccantino e sodio comunque presente anche nella rucola. E certo, ecco, e poi si consola con un bel piatto di tortellini. Professor, esatto, Borghi, torniamo a Bologna con lei. Certo. Per il nostro Tommaso. Senta, professore, sale, cuore, sale e pressione. Solitamente quando un po' i livelli della pressione aumentano, andiamo dal medico e ci dice: si metta un po' a dieta, signora, poi mi raccomando, un po' leggera sul sale. Certo. Sì, questa è probabilmente una delle associazioni più studiate, ma anche più solide. Aumentare l'introito di sale fa aumentare la pressione. Noi abbiamo dati che derivano dalla valutazione delle popolazioni del mondo. Le popolazioni che non conoscono l'uso del sale non hanno ovviamente conoscenza dell'ipertensione, quindi è chiaro che i dati vanno un pochino diluiti, ma sicuramente c'è una correlazione diretta, quindi è naturale che quando noi ci presentiamo con un aumento dei nostri valori di pressione, la prima cosa che ci viene suggerita è fare un esame di coscienza ed eventualmente ridurre la quantità di sale che noi ingestiamo. In una certa percentuale dei pazienti ha un buon successo, perché ciò che non bisogna mai dimenticare è che il sale in assoluto ha degli effetti sfavorevoli, ma questi effetti possono essere amplificati in una sottopopolazione di pazienti che sono cosiddetti sale sensibili, per cui per quantità minori di sale che vanno ad ingerire hanno degli effetti più sfavorevoli sul controllo della pressione e dal punto di vista cardiovascolare in generale. Quindi sicuramente se noi nella nostra pratica clinica incappiamo in un paziente sodio sensibile, ridurre un po' la quantità di sale nella dieta potrebbe produrre dei risultati eccellenti. Andiamo da Simone, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone, ci racconti. Ma io volevo semplicemente un po' raccontare la mia testimonianza così della nostra famiglia, in cui stiamo cercando di ridurre il consumo di sale, però è una fatica perché bisogna riadattare il palato, no? Certo. Dopo anni ed anni di di gusti di un certo tipo, a fare retromarcia non è facile, ecco, costa sacrificio. Sembra più facile con lo zucchero rispetto al sale. Simone, ha provato credo, anche lei? Sì, assolutamente, perché il gusto è completamente... Sì. Completamente diverso, ecco. Bisogna però anche un po' cambiare forse il metodo di cottura, le verdure non farle troppo svenire nell'acqua, ma renderle un pochino croccanti. In questo modo si mantengono i sali minerali, certo, che danno più sapore. Che bella idea, vedi, lo zucchino proprio svenuto, bollito, strabollito, invece se lo tieni un po' croccantino. Simone, insomma, ce la mettiamo tutta e ci facciamo aiutare anche dalla professoressa Flacchi, che ci dice: leggete le etichette, fate sì, quindi portate in tavola, acquistate prodotti con un contenuto di sale un pochino più ridotto, e nel caso fate delle allegre sostituzioni o abbinamenti. Certo, e soprattutto la verdura possiamo cuocerla a vapore in modo da mantenere il gusto dei sali minerali presenti, e questo già ci aiuta. Poi proprio perché dovremmo fare prevenzione, abituiamo già i bambini da piccoli a non esasperare né il gusto del dolce né il gusto del salato. Questo oggi è approvato e indicato anche dai pediatri, e se si inizia da piccoli certamente è più facile da adulti avere, certo, perché come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera. Ecco, brava. Perché brava. Su Twitter un ascoltatore ci scrive: ma una vita senza sale è come amare senza passione. Siamo anche un po' poeti, d'altra parte abbiamo celebrato anche la giornata. Cuore, denari e poesia in abbondanza. Professor Borghi, noi stiamo parlando di sale, sai che ce ne sono di tutti i tipi, malaia, rosa, nero, profumato, speziato, eccetera, però noi parliamo di un sale in particolare. Parliamo del sale iodato. Beh, il sale iodato ha certamente una serie di proprietà favorevoli, che non sono però quelle di sostituire gli effetti sfavorevoli del sodio, che certo, è il grande elemento che sta sullo sfondo del rischio legato all'ingestione eccessiva di sale. Il sale iodato ha l'utilità di non spedirci in carenza di iodio e quindi non alterare il funzionamento della tiroide. È stata una grande intuizione quella di presentare il sodio in un sale diverso dal cloruro di sodio, che è il normale sale da cucina, in modo da ottenere sostanzialmente un duplice vantaggio: da un lato di insaporire i cibi, dall'altro di prevenire gli importanti problemi della tiroide, che sono stati nel nostro paese endemici per un certo periodo di tempo, soprattutto in zone in cui lo iodio scarseggiava nell'aria. Quindi oggi c'è questa buona abitudine di utilizzare sale iodato, che ha un vantaggio ulteriore dal punto di vista della salute. Attenzione però, chiedo alla professoressa Flacchi, ci scrive Sabrina: ho tolto quasi del tutto il sale e mi è venuta la tiroidite. E un'altra ascoltatrice ci scrive: io da anni ho abolito il sale, ma ci possono essere degli effetti sulla tiroide? Vogliamo chiarire questo aspetto? Ma io credo che non ci sia questa correlazione, perché parliamo di sodio e non di iodio. Probabilmente ci può essere la casualità, ecco, in questo caso. Non credo che un endocrinologo possa creare questa correlazione, quindi senta il suo medico e approfondisca con degli accurati esami del sangue il problema. Ha senso, professor Borghi, abbiamo parlato di prodotti alimentari, ma parliamo di acqua. Ha senso consumare dell'acqua povera di sale, di sodio? Sostanzialmente sì, perché l'acqua è un altro di quegli elementi o alimenti occulti nei quali il sale può essere presente. Alcune volte è percepibile il sale. Adesso naturalmente noi non vogliamo promuovere né abbattere brand particolari, ma ci sono acque che anche al gusto individuale si percepiscono chiaramente come salate. In questo caso, naturalmente, se si decide che quella deve essere una scelta perché noi gradiamo quel tipo di sapore, dobbiamo sapere di ridurre ulteriormente il sale che ha altre provenienze. Cioè, il sale occulto è oggi il problema principale, quello che è presente in cibi di varia natura, soprattutto dove noi non ce lo aspettiamo. Anche per cui nei dolci, un po'. Anche nei dolci, anche nel gelato. Il gelato contiene il sale, perché sennò ovviamente si indurirebbe in maniera eccessiva. Per poterlo mantenere così morbido e soffice quando lo si mangia con grande piacere, c'è dentro una piccola quantità di sale. Sì, perché il sodio comunque viene nascosto alle nostre papille gustative dallo zucchero. Assolutamente. Sul fatto che venga nascosto non c'è dubbio. Lei ha citato i dolci sono l'esempio più clamoroso di una ricetta nella quale è contenuto sale, ma il sapore del sale viene completamente soverchiato dai dolci. Infatti, quando li faccio aggiungo sempre un pizzico di sale anche all'impasto. No, lei è una straordinaria cuoca e quindi ha queste capacità. Ci provo. Allora, abbiamo tempo, Mauro? Non lo so se Filippo ci lascia. Mauro, ci faccia un salutino, che così poi magari ci scrive. Buongiorno, mi chiamo Mauro da Genova. Sì. Volevo solo avere una brevissima informazione. In relazione al sale rosa dell'Himalaya e altri sali di diversi colori dalle altre parti del mondo, le caratteristiche tecniche organolettiche e cosa, che reazione hanno sull'organismo? Allora, qua bisogna mettere in piedi un trattato, chiederemo naturalmente ai nostri esperti di risponderci, troverete magari l'intervista sulle nostre pagine. Grazie a Mauro per essere intervenuto, alla professoressa Flacchi, al professor Borghi, a Filippo Aureggi, regia la parte tecnica. A Laura Vanossi e Marco Lombardo per l'assistenza in redazione. Noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.